Il mio nome è Michele, mi chiamo Michele, io sono Michele, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Chi sei? Io mi chiamo Michele. E te? Come ti chiami?